Proseguiamo con le indicazioni che riguardano la lettura del Sefer. Abbiamo visto la scorsa volta, nel 23.8, nel Kitzur, che per primo al Sefer si chiama il Kohen. Qualora il Kohen dovesse essere presente al Tempio ma ancora in mezzo alla Tefilah, la domanda è se bisogna chiamare il Kohen e farlo interrompere la sua Tefilah per venire alla sua chiamata, l'Aliyah, la Torah, al Sefer. Allora al numero Tet, che corrisponde al numero 9, impariamo così. Scusate, il numero 10. No, il 9 l'abbiamo studiato, il fatto che bisogna chiamare il Kohen. Dobbiamo studiare adesso il numero 10, benissimo, Yud. Im ha-Kohen omed bi-Kriyat Shema o bi-Birchot Kriyat Shema, se il Kohen si trova in quale punto della Tefilah? Sta facendo lo Shema, oppure sta facendo le Berachot relative allo Shema prima e dopo. O Mikol Sheken, a maggior ragione, se il Kohen dovesse trovarsi in un punto ancora più delicato, diciamo così, e cioè la Amidah. Mikol Sheken im omed bi-Tfilat Shemoneh Esreh, se si trova durante la sua Tefilah dell'Amidah. Afilu Encham Kohen Acher, anche se non ci fosse un altro Kohen, en korinoto, non è necessario invitarlo a chiamarlo a Sefer, non lo si chiama Sefer e non si attende che lui concluda la sua Tefilah per poter poi interrompere e poi chiamarlo al Sefer, si va avanti come se non ci fosse. Mishum tircha de tzibura, questo per un motivo molto semplice, che viene definito in aramaico tircha de tzibura, e cioè il disturbo del pubblico, il disturbo dei presenti. Ci sono alcune cose che si fanno o non si fanno in considerazione della presenza di un pubblico che non deve essere messa in condizione di dover attendere, eccetera. Quindi in questo caso lo si applica questo discorso del Tircha di Tzibura e non si chiama il Kohen. Cosa si fa? Si chiama il Levi o gli Israel, come se appunto non ci fosse un Kohen, e la Korin Levi o Israel, ven omrim im en kan Kohen, e omrim Levi o Israel bim kom Kohen. E si chiama il Israel dicendo bim kom Kohen al posto del Kohen, o Levi bim kom Kohen, come si fa appunto quando non c'è il Kohen. Veim en... scusate, ubedi avad, se a posteriori magari il gabbai o chi chiama Sefer non si è accorto che quel Kohen stava facendo la Amidah o lo Shema o simile e ha chiamato il Kohen a Sefer, ha detto Yamod il Kohen, allora se è stato chiamato ubedi avad a posteriori allora bisogna vedere a che punto sta il Kohen. Im omed bi-Kriyat Shema o bi-Birchotea, se il punto della Tefilah in cui lui si trova è lo Shema e le relative Berachot, visto che è stato chiamato, va a Sefer, ole, sale alla Teva, umevarechet ha-Berachot, e recita le Berachot della Torah. Però, a differenza di quanto si fa normalmente, aval, lo yikra im ha-Kore, non è lecito che lui legga con l'officiante, che normalmente quando uno viene chiamato a Sefer è bene che accompagna con la lettura sottovoce la lettura del lettore, dell'officiante. In questo caso, che il Kohen non dovrebbe in realtà interrompere, interrompe solo per la Berachà, ma non per la lettura di accompagnare l'officiante nella lettura del Sefer. E la Yishma, solamente ascolti, esca l'obbligo della mitzvah ascoltando. Umikol makom... Se però, nonostante ciò, se avesse la possibilità, imefshar lo, se avesse la possibilità, yesh lo ligmore ta'inyan shehu omed bo, è meglio se riesce, se fosse possibile, concludere la parte della tefilah che sta facendo, quindi terminare il brano, le heicha de salek inyana, dove conclude un brano, una frase, dove conclude un concetto. Se finisce quello, Kodem Shuole, se riesce, prima di salire in Teva, cerca, se manca poco, qualche parola per concludere un brano, allora è bene che lo concluda. Vim omed bit filat shemon esre. Se invece, tornando al fatto che il Coen è stato chiamato, senza che chi lo chiamasse si accorgesse Amida. che stava facendo, cosa stava facendo l'Amida, afilu che era uhu loyale, in quel caso anche a posteriori, se l'avessero chiamato, non si muove dalla sua Amida, rimane con la sua tefilà. Inoltre, un altro punto in cui non va al Sefer anche se fosse stato chiamato, Chen ben Geulah litfilah loyale. Tra la Geulah, cioè la Berakha della redenzione, Baruch Ata Hashem Gaal Israel, che conclude le Berakhot dello Shema, dopodiché c'è l'Amida, anche se non ha ancora iniziato l'Amida, ma ha già concluso questa Berakha, non va a Sefer, continua l'Amida, cioè inizia l'Amida e va avanti. Mentre invece se sta per finire l'Amida e sta già dicendo Elokai Netzor, quindi ha già detto, finito l'ultima Berakha di Amevarechet Amo Yisrael Bashalom, e ha iniziato a dire Elokai Netzor, l'ultimo brano aggiuntivo, e viene chiamato al Sefer, va a Sefer, interrompe e va a Sefer, perché lì è già considerato per questo contesto qui come se fosse già conclusa l'Amida. Ubitfilat Elokai Netzor, Ya'aleh. Se il Kohen sta recitando le Psukei de Zimra, e cioè da Baruch Sheamar fino a Yishtabach e tutto ciò che c'è in mezzo, Ashrei Shevetecha, eccetera, tutti i versetti di lode che sono lì, Vim Uomed bi Psukei de Zimra, Im En Sham Kohen Acher, se è lui l'unico Kohen presente, Afilu Lekatchila Korinoto, lo si può chiamare al Sefer per fare il Kohen, per essere il primo, anche a priori. Non è solo se l'hanno chiamato va a Sefer, no, anche a priori viene chiamato. Ma anche in questo caso, Achloi Kra im HaKore, anche in questo caso interrompa solamente per le Berachot, non per la lettura come dicevamo prima, se viene chiamato a posteriori durante lo Shema. Avali Miesha Macher, ma se c'è presente un altro Kohen, En Korinoto Lechatchila. Non lo si chiama a quest'altro Kohen che sta facendo Pesukei de Zimra, non lo si chiama a priori. Se viene chiamato, sale, ma a priori non va chiamato perché c'è un altro Kohen che non deve interrompere niente. La stessa regola che abbiamo detto ora riguardo il Kohen riguarda anche il Levi, Chen Adin ba Levi, ma riguarda il Levi non come prima chiamata, come seconda chiamata, quando c'è il Kohen. Quindi il Kohen è stato chiamato regolare. Poi chiamano i Levi e poi si accorgono che sta in mezzo alla tefilà. Tutto quello che abbiamo detto riguardo il Kohen si applica anche a Levi in quell'altra situazione. Ora, bisogna capire che in molte comunità si usa chiamare a Sefer facendo il nome della persona. A Roma siamo abituati che si dice Yamod HaRishon, HaSheni, HaKohen, HaLevi, il primo, il secondo, eccetera. Poi il nome lo si dice dopo quando si dà la berakha del Mishe Berach. In realtà in molte comunità si chiama la persona direttamente con nome. Yamod, Yosef, Ben Yaakov, William. Samuch Bechavod e così via. Ok? Allora, quella è considerata una chiamata personale che non si può rifiutare. Non che l'altra si può rifiutare, ma qui questo solleva un problema specifico che ora vedremo nel numero 11, Yudalef. Im karula Kohen o la Levi, se avessero chiamato un Kohen o un Levi di venire a Sefer per nome, Yamod Yosef HaKohen, ok? Poi si accorgono, ah, Yosef non c'è, è uscito prima, per dire. Però c'è un altro Kohen che si chiama Shimon, allora potrebbero dire Yamod Shimon HaKohen, no. Non si chiama il secondo per nome, perché? Lo yikreu le'acher bishmo, she lo yomru al rishon sheu pagum, perché se ci si, ci, se, se si invitasse l'altro chiamandolo per nome, uno dei presenti o i presenti potrebbero sospettare che il primo non è idoneo come Cohen. Ah no, Yosef HaCohen non va bene, ha fatto qualcosa che gli toglie il diritto del sacerdozio. Allora, chiamiamo Shimon HaKohen. quindi non si può fare. Perché è come se dicessi al posto di Yosef prendo Shimon, Yosef non va bene. Può risultare in un imbarazzo o comunque una cosa che non è vera. Allora cosa si fa? Si dice semplicemente all'altro vai tu a Sefer, senza dire il nome. E la Yomru lechat aleata, sali tu viale. Ma se fosse presente il Cohen, che è il figlio di Yosef Cohen che abbiamo chiamato, abbiamo detto Yamod Yosef Cohen, poi ci siamo accorti non c'è Yosef Cohen, però c'è il figlio che si chiama Efraim, Efraim a Cohen, quello lo si può chiamare per nome. Perché? Perché è evidente che non c'è nessun problema nel padre, perché se ci fosse un problema nel padre ci sarebbe anche un problema nel figlio, a livello di Keunah, di sacerdozio. Di conseguenza non c'è questo problema se si chiama il figlio. Shem Baze Pegam Leaviv, Shareim Ha'av Haya Pagum, Gam Ha'ben Haya Pagum. Quello che abbiamo detto, anche il figlio sarebbe stato problematico dal punto di vista alachico della Keunah, del sacerdozio. Quindi il fatto che lo chiamiamo per nome indica che non c'è problema neanche col padre. Vehen, inoltre, se fossero stati chiamati un Cohen o un Levi, ma stanno in un punto in cui non possono salire come in mezzo alla Midah, ima Cohen o Levi e inam yecholim lalot, non possono salire a Sefer, mipnei sheomdim bitfilah, perché stanno facendo la tfilah, yecholim likro leacher bishmo, in quel caso possono chiamare un altro per nome, perché tutti vedono che questo Cohen sta facendo la Midah ed è questo il motivo che non può salire a Sefer, non che non è presente e non può rispondere, è qui. E con le proprie azioni che sta facendo la Midah risponde al motivo per cui non va a Sefer. Quindi è chiaro, tutti vedono che non va a Sefer, mipnei shein o rashai, perché non ha il permesso largamente di salire, sta facendo per esempio la Midah. Veim karule Israel veinosham, se si chiama un ebreo normale, regolare Israel, e poi ci si accorge che non c'è, non è presente, yicholin leacher, likro leacher bishmo. Si può chiamare un altro Israel per nome, perché tutto il concetto della non Dice idoneità che può esistere nel Kohen non esiste nell'Israel. Che be Israel lo shayach pegam. Non esiste questo concetto di non essere idoneo nell'Israel. Vehen im karu la Kohen o la Levi le Acharon o le Maftir be Shabbat Yom Tov enam sham yicholin likro le'acher b'shem. Anche se si dà la chiamata al Kohen o al Levi, ma non la loro chiamata regolare all'inizio, l'ultima chiamata. Oppure il Maftir, l'hanno chiamati per nome e poi viene fuori che non sono presenti, possono chiamare un altro per nome, perché quello non è la loro chiamata ufficiale e quindi non si entra nel discorso che non può prendere la sua chiamata, perché anche se fosse un Israele avrebbe potuto prendere quella chiamata. Quindi non si pone il problema. Allora, oggi concludiamo qui. Scusate, oggi è breve, prossima volta riprendiamo Un po' con il discorso se non è presente un Cohen.